mai senza dir nulla su una corda appesa al gancio della nostra fantasia. Verso l'infinito che si perdeva in una nebbia indecifrabile. Il signor Naif cominciò a camminare, allontanandosi pian piano. Avrei voluto urlare: ehi, signor Naif, non è bello vedere qualcuno di spalle andare via? Come una nave che, mentre si allontana, trasforma già in ricordo ciò che ha in sé, ma lo pensai soltanto mentre lo guardavo camminare. Oltre la nebbia non si vedeva l'altro capo, l'altro gancio era appeso ad un'incognita che il signor Naif andava ad incontrare. Ma prima di sparire nella nebbia si voltò col suo sorriso triste. Dove se ne va, signor Naif? Che cosa cerca? Non verrà a dirci che ritorna a casa? Ritorno a casa, sì, rispose lui. È da quando sono nato che sto cercando di tornare a casa. E mi ritrovo sempre a camminare gli stessi passi sulla stessa strada. E sono stato bene in questa strada. E sono stato male. Ho riso di gusto, ho pianto, ho scritto, ho fatto l'amore. Ho recitato in pubblico il mio sogno personale, portandomi a casa i sogni di quelli che invitavo a sognare. Non sono arrivato, non sto andando via, io continuo soltanto a camminare. Da che son nato per tornare a casa. E riprese la sua strada, lasciandoci soltanto il suo sorriso. E infine si confuse nella nebbia e come un sogno si dissolse piano. Per ogni attimo che se ne va, ce n'è un altro già pronto a subentrare. Quanto dura un attimo? Esiste un tempo che lo possa misurare? Gli attimi trascorsi a rubarsi briciole d'amore, stretti in parcheggi affollati o immersi in valli dove corrono i cinghiali, vicini a mucchi di spazzatura o in una terrazza sul mare col benestare della luna. Sono attimi differenti da quelli impiegati ad aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare. Una lettera, una voce, che si aprano due occhi vicino a un capezzale, che ritorni il giorno, che finisca il mare, finisca il mare, che si smetta di piangere, che finisca una guerra, che qualcuno possa ritornare. Quanto dura un attimo, quanto possiamo farlo durare? signor Naif, ora anche il pubblico vuole andare, siamo a una nave che se ne va, portando via qualcosa, lasciando qualche cosa, che qualche cosa sempre rimane, prima che sia soltanto...